Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 87 de la serie Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Aquí estamos de nuevo, vamos a disfrutar de 13 cortes que harán que la noche te sea placentera a la primera hora de la noche. Empezamos con Jack Kim Joyner y este Jazz Club, un poquito de smooth jazz para empezar la noche. We'll be right back. Después de escuchar a Jackie Joyner con este Jazz Groove, ahora venimos presentándote este nuevo disco de Gregory Porter. En rfcr.es viene David Murray Infinity, acompañado de Gregory Porter, en este tema que se llama Be My Monster Love, un tema del año 2014. Monster love, I've left the window half open, climb in, my neck is yours, suck me till I'm anemic, until I can't get out of bed, until the doctors give me up for dead, till there's nothing left to feel, leave a whiff of your subject cologne, so I know. So I know that you are real. Be my monster love. We don't have to wait for no full moon. Let your hair grow long. Let your fingernails become claws. I'm your wolf man and you're my cat woman. I don't care about your flaws. Make me scratch and scream. Of me and roll me on your tongue, savor all my delicacies, and when you're all through, give me some, and when you're all through, give me some. Be my monster love, the mummy of my dreams. Come lift me from my bed of flowers. Come on now, carry me to my queen. Oh, thank you. tell I'm anemic until I can't get out of bed. Until the doctors give me up for dead. Till there's nothing left to feel. Leave a whiff of your sultry cologne. So I know that you are real. So I know that you are real. Be my monster love. We don't have to wait for no full moon. Let your hair grow long. Let your fingernails become claws. I'm your wolf man. You're my cat woman. I don't care about your flaws. Tongues, savor all my delicacies, and when you're all through, give me some, and when you're all through, give me some. My monster love, be my monster love. Oh, oh, oh, oh. Be my monster love. Da, da, da, da, da, da, da. Y ahora volvemos un poco atrás en el tiempo, nos vamos con Stanley Clark y George Duke Project con este Winners, un poquito de funk y sonido electrónico para homenajear a este gran artista como fue George Duke y no tan menos artista como fue Stanley Clark, y sigue siéndolo. Y ahora vienen The Whispers con este This Kind of Loving, un poquito de funk. Y te recordamos que si quieres escuchar funk, tienen los viernes de 8 a 9 de la tarde el programa Fantástica, en el cual escucharás buena música funky. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Bien, después de escuchar The Whispers, vámonos más atrás en el tiempo. Vamos a escuchar una vocalista femenina llamada Silvia y este tema que se llama Pardon My English. Goodbye, did I sit and cry? Want to go and die, oh no, sorry. Made another wish, get another fish. Lots of pretty fish are in the sea. You think you are my one and only. Pardon my English, I ain't lonely. Ain't about a brood in a happy mood. Even sat and booed your photograph. Ain't a total wreck, you can double check. Sticking out your neck is for giraffes. So if some night you want me, baby, meet you face to face, you can name the place. I'll be in the pink, I'll buy the drink. After one or two, tell you that I'm true. Absolutely true, I think. Happy mood, even sat and booed your photograph. Ain't a total wreck, you can double check. Sticking out your neck is for giraffes. So if some night you want me, baby, meet you face to face, you can name the place. I'll be in the pink, I'll buy the drink. After one or two, tell you that I'm through. Absolutely true, I think. Pardon my English, Silvia, y ahora viene Ramsey Lewis Trio con este de In Crowd, otro grande, Ramsey Lewis, el piano. y del piano pasamos al saxofón de la mano de David Sanborn y este Coming Home. Coming Home Baby, es el tema de David Sanborn al saxofón. Y ahora viene aquí el quinteto de otro saxofonista, Stan Getz, y este It Might As Well Be Spring. Mm-hmm. Confidencias en la madrugada, con Palaciego. Saxofonista Stan Getz y su quinteto con It Might As Well Be Spring. Y viene el trompetista Miles Davis y el saxofonista de nuevo John Coltrane. Nuestro Round Midnight, alrededor de la medianoche. Ya hemos pasado la medianoche, pero seguimos disfrutando de buena música. Thank you. Y ahora escuchamos un tema, bueno, un tema extraño, pero pega también bien, este keyboard que se llama Peaceable World, mundo tranquilo, un mundo de paz. Y eso es lo que queremos ahora, un mundo tranquilo, un mundo de paz, un mundo de relajación en este momento, en Confidencias en la Madrugada. Is that alone coming in the music? Y ahora viene un grande como es Mario Biondi, el italiano Mario Biondi, con la UG y este Finale Indisolvenza, un poco de italiano. Se mi vedessi mentre calpesto questa strada americana, sai quanta voglia di abbracciarmi avresti, amore, che sei così lontana. E tutto intorno piove, ho una canzone dentro tutti i sogni e tutta la distanza. Se la sentissi ora capiresti, amore, non c'è miglior dolore di questa lontananza. E piove sui lampioni e sull'asfalto solo grande applauso, e io non ho l'ombrello ma ho un cappello, e basterà come è bastato per la fine a mille eroi del cinema, nel finale in dissolvenza. Un poco de música italiana, ahora viene Neri Percasso, este grupo vocal italiano, con este Sogno. Sogno, che non è realtà, questa città non c'è. Sogno, immagina, siamo solo io e te. Sento questa voce che chiede dove vado, se tu poi mi lascerai. Ma io lo so, non lo farai. Sono certo perché un sogno non è realtà, questa città non c'è. Cerco negli occhi tuoi quel che vedrai che di me che non ti sento più, che ti sento più, che ti allontani e corri a testa in giù, che penso che farò, spero solo che mi sveglierò. No, no, no, no. Sogno non è realtà, questa città che non c'è. Fumo, è strano ma vedo solo e sempre te. Tocco questo muro che ho costruito, ma perché gli do una spinta e salto su. Io so che oltre ci sei tu, ma ricado perché questo è un sogno, non è realtà, questa città che non c'è. Sogno, immagina, ci siamo solo io e te. Sogno en el hipercaso y finalizamos con el pianista Bob Baldwin y este I'll Be Around featuring Mario Meadows, otro saxofonista. Y bien, con esto finalizamos el Confidencias en la madrugada de esta semana. Volveremos la que viene con más buena música. Sigue la buena música en rfcradio.es.